America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. This just in, U.S. National Security Advisor Michael Flynn had just resigned. Michael Flynn ha rassegnato le dimissioni da capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca dopo appena 3 settimane nella sua carica, il primo scandalo dell'amministrazione Trump, il primo scandalo all'interno della Casa Bianca. Queste dimissioni, tra l'altro, sono giunte, devo dirvi, dopo una notte turbolenta, perché abbiamo visto colpi di scena continui e un crescendo nel corso della giornata che sembrava però rendere inevitabili poi queste dimissioni e che alla fine sono giunte. Questo è il passaggio chiave della dichiarazione di Flynn, il capo della sicurezza nazionale, dice: rassegno le dimissioni perché, cioè, sfortunatamente nel corso di eventi particolarmente intensi ho inavvertitamente riferito informazioni incomplete al vicepresidente Mike Pence riguardo le mie conversazioni con l'ambasciatore russo Sergei Kislyak. E questo il punto chiave. Che cosa è successo? Che a un certo punto, quando non era ancora consigliere per la sicurezza nazionale, Flynn ha chiamato l'ambasciatore Kislyak, che conosceva. Flynn, tra l'altro, aveva una relazione molto forte con Mosca, era stato visto a un tavolo con Putin in dicembre in occasione di un premio che era stato consegnato nella capitale russa, e dunque c'erano sospetti di una sua vicinanza forse un po' eccessiva con Mosca, e dunque questa cosa che lui ha fatto ovviamente non era legale nel contesto della sua posizione attuale. Che cosa ha riferito Flynn a Kislyak? Beh, gli parlava delle sanzioni che il presidente Barack Obama aveva imposto contro Mosca per aver interferito nelle elezioni americane. In genere, quando ci sono queste sanzioni così dure, beh, da Mosca c'è una risposta. Questa risposta non c'è stata. Perché? Beh, proprio per la conversazione fra Kislyak e il consigliere Flynn, consigliere naturalmente in pectore. Questo ha generato sospetti al Dipartimento per la Giustizia, che monitorava conversazioni di funzionari ad alto livello, e si è temuto che Flynn potesse essere esposto al ricatto di Mosca. Ma qual è l'elemento chiave? E appunto questa sua conversazione a un certo punto con Penn. Sentiamo. What I can confirm, having spoken to him about it, is that those conversations that happen to occur around the time that the United States took action to. Ecco, Michael Pence, rassicurato da Flynn sul fatto che non aveva avuto assolutamente conversazioni che riguardavano le sanzioni con Kislyak, è intervenuto pubblicamente nelle reti televisive dopo che le indiscrezioni su queste conversazioni di Flynn con Kislyak erano state date dalla stampa, e quindi Pence, rassicurato da Kislyak, interviene e dice: assolutamente no, non ci sono state conversazioni che riguardavano le sanzioni. Ecco, e poi la storia ci ha detto che invece non è andata così, e un consigliere per la sicurezza nazionale non può mentire al vicepresidente, non può mentire al suo presidente. Questo ci porta anche a un altro aspetto molto interessante di questa storia. Sentiamo. Yes, General Flynn does enjoy the full confidence of the president, and it's a big week for General Flynn. He's the point of contact for Kellyanne Conway, fedelissima di Donald Trump. Ieri notte, in uno dei momenti più tesi di questa vicenda, interviene alla Casa Bianca in un'intervista con la CNBC e dice: il signor Flynn ha l'assoluta fiducia del presidente Donald Trump. E naturalmente la notizia esplode e si dice: beh, allora a questo punto Flynn resta. E sarebbe stata una posizione un po' inusuale da parte del presidente Trump, che è molto rigoroso su queste cose. Dopo mezz'ora interviene Sean Spicer, portavoce, il quale dice: il presidente sta ancora valutando la situazione, e dunque smentisce di fatto la Conway. Che cosa succede? Beh, in qualche modo si è rotto il cerchio magico all'interno della Casa Bianca, vicinissimo al presidente Trump. Da una parte Kellyanne Conway ha preso le difese di Flynn, i due avevano fatto un sodalizio; dall'altra parte Stephen Bannon con Sean Spicer avevano preso una posizione opposta. Chi emerge come il vincitore di nuovo da questa situazione è Stephen Bannon, sempre più l'eminenza grigia del presidente Donald Trump. We understand that both of our countries are stronger when we join forces in matters of international commerce, and we will coordinate closely to protect jobs. Il presidente Donald Trump si è incontrato ieri con il primo ministro canadese Justin Trudeau. Devo dire che secondo me è stato un incontro piuttosto positivo, anche perché si sono chiarite alcune cose che appartengono un po' alla mitologia del dibattito politico-economico, cioè che Trump voglia chiudere il NAFTA. Non è vero. Trump vuole rinegoziare alcuni aspetti del NAFTA e tra l'altro puntualizza che c'è una bella differenza tra il vicino meridionale, cioè il Messico, che ha un forte surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, rispetto al Canada, che ha sì un surplus commerciale, però su valori molto diversi. Mi sembra che sia interessante vedere questi valori, perché danno la misura di quanto importante sia l'interscambio commerciale fra i paesi. Pensate che il Canada è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti, con un interscambio per 575 miliardi di dollari. E devo dire, c'è una posizione abbastanza di equilibrio, perché gli Stati Uniti importano per 295 miliardi dal Canada, ma il Canada importa per 280 miliardi di dollari dagli Stati Uniti. Quindi il surplus a vantaggio del Canada è di 15 miliardi. Insomma, diciamo, non è che sia una cifra spettacolare, una cifra che può andare benissimo, anche perché da questo scambio commerciale c'è una forte iniezione per la crescita. Insomma, non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. La situazione col Messico è molto diversa, perché il Messico, tra l'altro, è il terzo partner commerciale degli Stati Uniti, 531 miliardi di dollari, però c'è un avanzo di 58 miliardi di dollari a favore del Messico. Però anche qui non dimentichiamo che comunque sia gli Stati Uniti esportano 236 miliardi di dollari nei confronti del Messico. Insomma, tutto questo per dirvi che cosa? Che Donald Trump il NAFTA non lo chiuderà, potrà cercare di introdurre alcune modifiche, potrà cercare di alzare il tono della retorica per riportare delle aziende che sono adesso in Messico negli Stati Uniti, però non credo che si andrà a uno scontro sul NAFTA. Questo è il messaggio di fondo che abbiamo avuto di questo vertice, cui si sono affrontate poi una serie di altre tematiche, perché si è parlato di donne imprenditrici, si è parlato di immigrazione, si è parlato della necessità di procedere con investimenti in impianti strutturali per il settore energetico. Obviously North Korea is a big problem, and we will deal with that very strongly. Ecco, altro tema che ieri è stato toccato solo marginalmente, nonostante sia stata una conferenza stampa, è la Corea del Nord. Donald Trump ha detto è uno dei più grandi pericoli che abbiamo. C'è una storia, tra l'altro, molto interessante, perché Trump è stato attaccato per aver parlato pubblicamente della crisi della Corea del Nord, che, come sapete, ha fatto l'altro giorno un collaudo di un nuovo missile balistico. Poi però la Casa Bianca ha spiegato che in realtà Donald Trump al tavolo col primo ministro Abe, in pubblico a Mar-a-Lago, cioè nel club di Donald Trump, non parlava di segreti di Stato, ma stava semplicemente cercando di pianificare l'orario e la dinamica della conferenza stampa. Ecco, questo per dire che cosa, secondo me, che molti media americani continuano ad attaccarsi a delle cose su cui non vale la pena criticare Donald Trump, perché anche se fosse stato, voglio dire, una delle cose che abbiamo imparato da questa elezione è che la correttezza politica ha perso quel tono di severità dove qualunque cosa fuori di un millimetro dal suo posto deve essere attaccata e criticata. Forse le network ancora non l'hanno capito, ma è questo il messaggio degli elettori. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Trump e Trudeau, devo dire, hanno lavorato molto bene insieme, dunque dei Canned Heat, Let's Work Together. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!